vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 25 ottobre, il sole in regione sorto alle 6.39 tramonterà alle 17.03, potenza dell'ora legale. Sabato ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Arriva dal Giappone, dai territori tra Piemonte e Lombardia e si sta diffondendo rapidamente in nord Italia. È la Popilia japonica, un coleottero voracissimo che defoglia e attacca i frutticini di tutte le specie, mentre le sue larve nel terreno fanno altrettanti danni. È importante saperlo individuare e oggi Vita nei Campi ne parla con una esperta del settore. A seguire il corsivo di Enos Costantini che torna a parlare di cambiamenti climatici e agricoltura, temi passati in questi mesi in secondo piano. Nella rubrica delle normative e altre emergenze sanitarie con la peste suina africana e l'influenza aviaria che incombono. Più leggero il tema della rubrica della frutticoltura con una guida alla corretta potatura del melo e dall'Università di Udine arriva una ricerca sui prodotti senza glutine che devono essere assunti con discernimento. La rubrica dei giardini ci porta nel parco di Villa De Brandis di San Giovanni al Natisone prima dell'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Dalla Lombardia e dal Piemonte arriva un nuovo pericolo per la nostra agricoltura e non solo. A portarlo è un coleottero, Popilia japonica, suo nome che ci dice anche da dove arriva. È un coleottero probabilmente arrivato in aereo, visto che la sua prima sede di diffusione è stata vicino all'aeroporto della Malpensa. Di cosa si tratta? Quanto pericoloso, tra virgolette, è? Lo chiediamo a Iris Bernardinelli, del servizio fitosanitario dell'ERSA. Questo insetto è un coleottero che assomiglia ad alcuni dei nostri maggiolini e non è particolarmente grande, circa un centimetro di lunghezza all'adulto, e ha una bellissima livrea metallizzata con parti verdi e parti più marroni. Perché è pericoloso per l'agricoltura e non solo? È pericoloso perché è un importante fitofago, mangia attivamente foglie e frutti, può causare defogliazioni e asportazione parziale o totale dei frutticini a livello dell'agricoltura. Mentre le larve sono pericolose perché mangiano le radici nei prati e quando gli insetti sono presenti in abbondanza nel terreno, sottoterra, queste larve vengono predate da alcuni uccelli che fanno poi dei danni a livello del cortico erboso durante la predazione. Come si sta diffondendo e a che punto siamo? Attualmente è diffuso su un areale di circa di quasi 8.000 km quadrati a cavallo tra Lombardia e Piemonte e ha ormai superato la soglia della città di Milano. Questo lo consideriamo un punto abbastanza critico perché questo insetto quando si spaventa si lascia cadere e se passa un mezzo di trasporto mentre si lascia cadere questo viene spostato anche a distanze molto elevate. Una delle particolari siti a rischio sono le piazzole autostradali proprio perché sostano i mezzi e questo insetto poi riprende a volare. È già partita una campagna di contrasto? La campagna di contrasto è iniziata immediatamente dopo il primo rinvenimento in quanto è un organismo da quarantena prioritario e tra le azioni che si stanno mettendo in atto per il contenimento e l'eradicazione in alcune aree sono applicate misure di lotta diretta con dei nematodi entomopatogeni e con dei funghi altrettanto entomopatogeni che vengono distribuiti a livello del terreno e uccidono le larve. Contro gli adulti invece vengono usate efficacemente delle reti insetticide dove viene messo un attrattivo così gli insetti arrivano su questa rete insetticida e muoiono. C'è qualche parallelismo con la cimice marmorata asiatica che purtroppo conosciamo bene? È un insetto che ha un comportamento completamente diverso in quanto la cimice asiatica punge e succhia, questo invece mangia attivamente foglie e frutticini. L'unica cosa che possono avere in comune è quella di utilizzare le reti antinsetto nei frutteti che proteggono meccanicamente dall'ingresso degli insetti, e siccome anche questo è un insetto di dimensioni sufficientemente grandi da essere intercettato da queste reti, potrebbe risultare utile avere le reti antinsetto installate per i frutteti. Dovessimo pensare di averne trovato uno, cosa dobbiamo fare? Segnalarlo al servizio fitosanitario, magari includendo una foto, perché è molto facile confonderlo con insetti presenti comunemente sul nostro territorio. Questo ha dei caratteristici ciuffetti di pelo a livello della base dell'addome, però diciamo che per la maggior parte delle persone può essere abbastanza difficile distinguere i nostri maggiolini dalla popiglia japonica. Sul nostro sito Facebook troverete tutta una serie di foto che ve lo mostrano in maniera molto chiara. La pandemia che ci sta attanagliando ha fatto passare in secondo piano molti problemi, quello dell'andamento climatico tra i tanti problemi che possiamo un po' tutti risolvere con piccoli accorgimenti anche alimentari e di gestione dell'agricoltura, come spiega in questo corsivo Enos Costantini. La pesca industriale ha una flotta di 23.000 navi e riceve sovvenzioni dai vari stati per 9,2 miliardi di euro. Non si sa quanto pesce viene buttato a mare perché è considerato privo di valore commerciale, ma un buon 20% del pescato, si parla di 20 milioni di tonnellate, serve a fare mangime per altri pesci oppure per bovini, suini, avicoli, cani e gatti. L'Unione Europea importa ogni anno 14,5 milioni di tonnellate di granella di soia, 23 milioni di tonnellate di mangimi a base di soia, 10 milioni di tonnellate di mais e 5,5 tonnellate di altri prodotti per l'alimentazione animale. Per produrre questi 53 milioni di tonnellate servono circa 32 milioni di ettari, pari a un buon terzo della superficie agricola europea. Così, per avere carne scadente a basso prezzo, facciamo coltivare le terre brasiliane, dove il 60% della superficie a soia è controllato dal 5% dei produttori. Il virus regnante ci ha fatto dimenticare il riscaldamento globale, al quale i virus riusciranno a sopravvivere, l'uomo invece no. Non serve diventare vegani e neppure vegetariani, basterebbe mangiare carne solo di domenica, come nei non lontani anni 60. E soprattutto carne di filiera 100% locale, tracciabile, garantita dall'allevatore del paese, dal norcino e dal macellaio. Non serve una rivoluzione, basta un fattibile cambiamento nei costumi, nel quotidiano, nelle abitudini. Chiamatelo innovazione, chiamatelo progresso, chiamatelo salute, chiamatelo risparmio per la sanità regionale, quindi di pubblico denaro. Meno carne oggi significa meno migranti climatici in futuro. Ne sono previsti dai 200 agli 800 milioni, ma la cosa certa è che nei prossimi 50 anni 3 miliardi di umani vedranno insidiate dal calore le proprie risorse vitali, cibo e acqua, e la loro stessa vita. Per evitare disastri futuri basterebbe una politica per le produzioni locali. Si farebbe un grande favore tanto ai friulani quanto agli africani. Sento dire che arriveranno tanti soldi. Impieghiamoli bene. Ricominciando dall'agricoltura. Di questi tempi le allerte sanitarie non riguardano solo il genere umano, ma anche altre specie animali. Ne parliamo oggi con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Quelle che maggiormente preoccupano il comparto zootecnico in queste settimane sono la peste suina africana e l'influenza aviaria, tanto per i danni diretti che possono provocare negli allevamenti in termini di morie, quanto per i danni indiretti. I protocolli sanitari infatti impongono misure molto severe per l'estinzione dei focolai, come ad esempio limiti alla movimentazione degli animali o il cosiddetto vuoto sanitario. Ma allo stato attuale non risultano casi in Italia e tantomeno nella nostra regione? Fortunatamente no, ma è necessario tenere alta la guardia. All'inizio dello scorso settembre è stato rinvenuto il primo caso di peste suina in Germania, nei pressi del confine polacco, che ha messo in allarme tutta l'Europa. Sappiamo che il virus è estremamente resistente anche nelle carni conservate e che viene diffuso dai cinghiali. Ecco perché tutte le rappresentanze agricole a Bruxelles hanno chiesto unanimemente un piano europeo per la gestione della fauna selvatica. E l'influenza aviaria? Il 30 settembre l'EFSA, vale a dire l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha dato notizia di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Russia e in Kazakistan. A noi sembrano zone così lontane, ma se non fosse che si trovano proprio sulle rotte migratorie che passano anche per l'Alto Adriatico. E come sappiamo, una moltitudine di volatili transitano o si fermano proprio nella nostra laguna, che comprende anche importanti oasi naturalistiche. Non a caso il Ministero della Salute ha classificato come zona ad alto rischio tutta l'area che si estende sotto il tracciato autostradale Trieste-Latisana fino al mare. E ci sono misure particolari per le zone ad alto rischio? E naturalmente sì, oltre all'intensificazione del monitoraggio da parte dei servizi veterinari, il Ministero prevede quello che in gergo tecnico viene chiamato il rafforzamento delle misure di biosicurezza. Tra queste c'è l'obbligo di mantenere tutti i volatili allevati in ambiente coperto per evitare ogni possibile rischio di contatto con i selvatici. Per gli allevamenti intensivi questa è la regola, ma la prescrizione riguarda tutte le fattispecie di allevamento, anche quelle di carattere familiare. In ogni caso è necessario informare i servizi veterinari ogni qualvolta si riscontrino volatili morti o casi sospetti di influenza aviaria compresi, per esempio, cali di produzione o sensibile variazione nel consumo di acqua di mangime. Con il professor Raffaele Testolin, che ci cura la rubrica della frutticoltura e frutticoltura insegna anche all'Università di Udine, continuiamo a parlare del melo con un articolo oggi che ha così intitolato «La potatura del melo, una specie permalosa che non perdona errori». Diciamo subito, prima che chi ci ascolta si spaventi, il melo non è una specie difficile da potare, ma non bisogna fare errori, la pianta non perdonerebbe. Allora, vediamo bene quali tagli si possono fare e quali non si debbono assolutamente fare. Ovviamente parliamo della potatura invernale, ricordando che c'è anche un intervento estivo che consiste nell'eliminare i succhioni, cioè i tralci vigorosi che non servono. Se servono, bisogna piegarli di lato o verso il basso per indebolirli e convincerli a preparare subito le gemme destinate a dare la produzione l'anno seguente. Se tu, direbbero i francesi, per la potatura estiva. Ma veniamo alla potatura invernale, che si fa quando l'albero è senza foglie. Bene, regola numero 1. Tutti i rami vanno raccorciati per mantenere la forma alla pianta. Ora, qui sta il segreto, i tagli per raccorciare un ramo, grosso o sottile che sia, devono essere fatti eseguendo il taglio appena sopra un germoglio debole. Guai a tagliare un ramo di melo dove capita. Da appena sotto il taglio, l'anno successivo, partirebbero molti germogli vigorosi a formare quella che i frutticoltori esperti chiamano una testa di salice, un disastro estetico e produttivo cui è difficile rimediare. Regola numero 2. Tutti i germogli che partono dritti verso l'alto dalla schiena dei rami o dal tronco principale vanno eliminati perché non producono frutti, tolgono luce al resto della pianta e sono anche brutti da vedere. Regola numero 3. Con la potatura si regola anche la produzione. Quindi, se la pianta ha troppi rami, bisogna diradarli. Le mele, per essere buone, devono essere quanto più possibile esposte alla luce. Per concludere sull'argomento, dobbiamo dire qualcosa sul diradamento dei frutti. Il melo, per sua natura, ha un brutto vizio. Tende a produrre un anno molto e un anno poco. Gli esperti direbbero che tende ad alternare un anno di carica e uno di scarica. Per farlo produrre regolarmente ogni anno, quando i frutticini hanno le dimensioni di un'oliva, bisogna diradarli, lasciandone uno soltanto per ogni mazzetto di 2-3. Se vi sono ancora troppi, eliminate anche dei mazzetti interi quando sono troppo vicini, distanziandoli opportunamente. Buon lavoro e scrivete sul sito le vostre impressioni. Per per la rubrica dell'Università e della Ricerca, oggi con la professoressa Nicoletta Pellegrini, che all'Università di Udine insegna tecniche dietetiche applicate, parliamo del glutine e soprattutto della qualità nutrizionale dei prodotti senza il glutine. E questi sono effettivamente salutari, come pensano in molti? Negli ultimi anni i prodotti senza glutine hanno ricevuto molta attenzione dalla popolazione generale. In realtà questi prodotti sono dedicati ai soggetti che soffrono di disturbi legati all'introduzione di glutine, che può essere la celiachia, la sensibilità al glutine o l'allergia al frumento. Questi prodotti non sono necessariamente più salutari, anzi noi abbiamo analizzato recentemente circa 400 pani venduti nel mercato italiano e abbiamo scoperto, e di questi il 10% circa erano prodotti senza glutine, abbiamo scoperto per esempio che questi prodotti sono più ricchi di grassi, grassi totali e grassi saturi. In barba alla dieta, quindi, presunta. Sì, e quindi se l'idea è consumare prodotti senza glutine per perdere peso, così come si può leggere sui siti in internet, ahimè, questo effettivamente non è il modo migliore, perché come sappiamo, insomma, i grassi possono contribuire a introdurre più energia. Non solo più grassi, ma qualcosa di meno anche. Sì, in realtà questi prodotti sono formulati diversamente, ovviamente, perché non posso utilizzare del frumento che contiene glutine, quindi devo sostituire queste farine con altri ingredienti. Di solito quelli, diciamo, di minor qualità contengono come in principale ingrediente, sto parlando del pane, gli amidi. Amidi di, per esempio, di mais, di riso o anche di frumento a cui è stato allontanato il glutine. Questo fa sì che alla fine il contenuto, per esempio, proteico è molto più basso del prodotto tradizionale e anche il contenuto di un'importante vitamina che sono i folati risulta più basso. Tenete conto che nella popolazione generale pane e prodotti analoghi contribuiscono per il 30% all'introduzione di proteine e di folati, quindi voi pensate di consumare un prodotto più salutare, ma in realtà introducete meno proteine e meno folati rispetto a quello che fareste utilizzando un pane tradizionale. Mai diagnosi fai da te, quindi? Mai diagnosi fai da te, perché se effettivamente pensate di poter avere qualche intolleranza al glutine, è meglio andare dal vostro medico di base, spiegargli la situazione e assolutamente mai mettersi a dieta senza glutine, quindi evitando tutti i prodotti contenenti glutine, fai da te. Con Franca Merluzzi oggi andiamo nel parco di Villa De Brandis a San Giovanni al Natisone, un parco amato e frequentato dalla gente del posto. Il parco è aperto ogni giorno e tutti possono accedervi. Percorrerlo è una facile passeggiata tra i grandi alberi in uno spazio protetto da un alto muro merlato. Si estende dietro Villa De Brandis, ora sede della biblioteca civica. Creato nel tardo 800, era un parco signorile con brolo e braida coltivata. Entrando si vedono due belle statue e una curiosa torre dipinta di arancione. Era la vecchia colombaia, dove si allevavano i colombins, i colombi dalla carne prelibata per la tavola dei signori De Brandis, che trascorrevano qui lunghi periodi di villeggiatura, sorvegliando le attività agricole e ricevendo amici e parenti. Per volontà dell'ultima contessa, Caterina De Brandis, i beni diventarono di proprietà comunale. Il parco richiede cure costanti e a tutto provvede il comune di San Giovanni al Natisone. Alcuni alberi di varietà autoctone ed esotiche, che hanno oltre 100 anni, risentono dell'età e dei danni causati dai forti temporali. È successo anche recentemente. Messo in sicurezza, è stato subito riaperto al pubblico. Ormai in paese andare al parco è una piacevole abitudine. Organizzate dalla biblioteca, nella bella stagione si svolgono tante attività per adulti, ragazzi e bambini, compresi piccoli da 0 a 3 anni con le loro mamme. D'estate si vede il palco allestito per spettacoli ed eventi culturali, ma il tappeto erboso e altri spazi ameni accolgono laboratori, giochi, letture e dal brolo alcuni anni fa si è saliti verso il cielo a bordo di una mongolfiera. La veduta più suggestiva si ha scendendo dalla rampa che collega il salone della villa al giardino. La vista penetra in profondità fino al ponticello dipinto di rosso e ancora oltre verso la campagna. I De Brandis costruirono infatti un laghetto contornato alla moda del tempo da un boschetto di bambù e un salice piangente, come tuttora si vede. All'epoca potevano fare il bagno e andare in barca. Situazioni e funzioni ora sono cambiate, ma l'impostazione del parco storico è stata con lungimiranza mantenuta. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo e prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,30 e 17,50 euro il quintale IVA esclusa, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 16,20 e 16,70, il frumento tra 19,10 e 19,40 e la soia tra 38,70 e 39 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 1,50 euro e la soia di 6 euro il quintale. Scambi discreti all'ortofrutticolo di Udine con quotazioni diversificate. L'insalata gentile viene pagata da 1,50 a 2,20 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero tra 1,30 e 1,50, le zucchine da 2,80 a 3,80, i finocchi tra 1,20 e 1,80, i cavoli tra 1,50 e 2 euro, il radicchio rosso tondo tra 1,20 e 1,50, quello di Treviso precoce tra 1,40 e 1,70, il variegato tra 1,50 e 1,80, le mele golden tra 0,80 e 1,50, le pere Williams tra 1,80 e 2 euro, le castagne tra 3,50 e 4,50, i cacchi da 1,80 a 2,30 e le clementine da 1,50 a 2,50. Passando ai bovini e macello, nessuna novità di rilievo nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro il chilo IVA esclusa, mentre il mercato dei vitelli da ristallo segnala cenni di ripresa e l'ultimo andamento rileva i blu belga maschi quotati tra 6,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5,10, i frisoni tra 1,40 e 1,70, i bruni tra 1,30 e 1,60. Nel comparto suinicolo si rilevano cenni di pesantezza. Il valore degli attonzoli di 30 kg franco partenza viene fissato a 2,41 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello 1,46. In lieve evidenza le quotazioni del prosciutto. Con osso viene pagato tra 9,10 e 13,90 euro al chilo, mentre di sossato tra 12,10 e 17,30. Il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 17 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. La situazione meteorologica negli ultimi giorni ha visto l'ingresso di correnti atlantiche che hanno portato un po' di pioggia e temperature comunque piuttosto miti. Anche la settimana entrante inizierà con un fronte atlantico tra lunedì e martedì, capace di portare piogge localmente intense, sospinte dal vento di Scirocco e martedì di Veccio, maggiormente a ridosso delle prealpi. Aria mite nei bassi strati e più fresca in quota favorirà anche dei temporali. Temperature piuttosto miti con scarsa escursione termica. Le minime saranno poco sotto i 15 gradi, le massime poco sopra. Martedì sera il tempo dovrebbe migliorare, consegnandoci un mercoledì dal cielo per lo più sereno e aria più fresca la mattina. Nei giorni successivi prevarranno correnti nord-occidentali relativamente secche. I fronti atlantici scorreranno nel centro-nord Europa e quindi il tempo in regione sarà stabile. Soleggiato nelle ore diurne, con qualche foschia o banco di nebbia nelle ore notturne e con marcata escursione termica diurna. Minime intorno ai 5 gradi in pianura, 10 sulla costa e massime tra 15 e 20 gradi. Allo stato attuale non si intravedono segnali di piogge fino ai primi di novembre. Vi invitiamo comunque a seguire gli aggiornamenti a cura di Osmer ARPA sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: nil fred, nil cialt, nisun iu a mangias, ovvero prima o poi tanto il freddo quanto il caldo devono venire. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.